Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Siete pronti per la settimana numero 37 di Eclettica, quella in cui sono in palio i biglietti, anche se in effetti già lo sono stati sulla lista nera, quindi gli appartenenti alla lista nera sono dei privilegiati. Sono in palio i biglietti comunque per i Flaming Lips, per il 1 luglio a Ferrara sotto le stelle, questo è il nome della manifestazione, e il 3 luglio invece a Roma, a Villa Ada. Se volete andare a vedere questi concerti, se siete veloci, se siete fortunati, scrivendo giulio@radiorockfm.com, io non potrò altro che esserne contento. Questa è una delle ultime settimane di Eclettica di questa 12ª stagione, quindi vediamo di non perdere tempo. Colloquio di assunzione. Jack Torrance pensò: piccolo stronzo intrigante. Ullman era alto poco più di 1,60 m e quando si muoveva aveva la rapidità scattante che sembra essere peculiare a tutti gli ometti grassocci. Aveva i capelli spartiti da una scriminatura impeccabile e il completo scuro era sobrio ma non severo. «Sono un uomo al quale potete tranquillamente esporre i vostri problemi», diceva quel completo alla clientela solvente. Al personale stipendiato parlava invece in modo più sbrigativo. «Sarà meglio che figliate dritto, voi altri». All'occhiello spiccava un garofano rosso, forse per evitare che per la strada qualcuno scambiasse Stuart Ullman per il titolare dell'impresa di pompe funebri. Mentre ascoltava Ullman, Jack ammise tra sé che, date le circostanze, con tutta probabilità non gli sarebbe piaciuto proprio nessuno da quella parte della scrivania. Questo era l'incipit di... L'avete indovinato? L'avete scoperto? Questo era l'incipit di The Shining di Stephen King. Yeah. un inizio un po' così di eclettica questo martedì. Si state ascoltando in diretta, è la prima possibilità che avete durante la settimana di sentire la prima parte di Eclettica, un inizio forse dettato dal caldo, ma sarà il caldo che m'ha così portato su questi terreni danzerecci come gli ultimi che ci siamo appena ascoltati, ovvero sia Massive Attack, un estratto dal loro ultimo doppio Greatest Hits. Però su questo ha messo le mani James Lavelle, ovvero sia Uncle, quindi è ritornato fuori il marchio di fabbrica Uncle. In precedenza invece la versione remix di Woman di Wolf Mother, gruppo che ben conoscete sulle frequenze di Rock FM. Ma vediamo quindi di cambiare subito atmosfera spostandoci in Finlandia. Me and Lo, un francese ed una finlandese trasferiti in una capanna a far musica e a vivere di poco, escono per Young Records e questa è They Marry. Still playing a game? Of course. I should reach DEFCON 1 and launch my missiles in 28 hours. Would you like to see some projected kill ratios? Le ultimissime note di Devon Cowboy dei Boards of Canada per annunciare anche qua in trasmissione quanto è già oggetto di discussione dopo che io ho lanciato la proposta in lista nera. Vi ricordo che per iscrivervi alla lista nera basta mandare un mail a giulia@radiorockfm.com e così avrete diritto direttamente nella vostra casella di posta a tutte le playlist settimana per settimana. Ecco, in quella lista nera è cominciata una discussione, come vi stavo dicendo, sulla possibilità di aprire uno spazio, un Our Space su MySpace, lo spazio degli eclettici, vedere se quello può essere il luogo dove si ritrovano sì gli artisti ma soprattutto gli appassionati di una certa musica. Invito coloro che siano interessati a partecipare alla discussione in merito, ma anche eventualmente a dare il loro contributo, a farsi vivi a giulio@radiorockfm.com. Indirizzo da utilizzare nel caso abbiate qualche problema con il podcasting o abbiate da segnalarmi qualcosa che non va con il podcasting, come ha fatto uno fra voi dicendomi: ma mi sembrano pubblicate trasmissioni di settimane diverse eppure tutte con la stessa data. Si tratta di un refuso? Sì, si trattava di un refuso e segnalata la cosa e subito l'ho risolta. Quindi mi aiutate anche a risolvere gli eventuali problemi da me stesso causati. E poi trovate modo sempre di mantenere il contatto con questo indirizzo per raccontarmi qualunque cosa vi venga in mente e soprattutto mantenere il contatto quando fra qualche settimana Eclettica si interromperà per poi riprendere dopo la pausa estiva con quella che sarà la 13ª stagione su Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Direi che è arrivato il momento di chiudere questa prima parte di Eclettica della settimana con un artista che proviene dalla città di Francoforte. Beh, in effetti è nata a Francoforte, poi da un po' di tempo vive a Colonia, si chiama Niob. Dopo due dischi su Sonic, Zezze nel 2003 e Udo Luba nel 2004, ritorna all'etichetta per cui aveva esordito, ovvero sia la Tom Lab, e esce il 26 di giugno con un nuovo album dal titolo White Hats. Niob probabilmente la ricorderete anche come voce in Radical Connector, forse la traccia più house dall'ultimo lavoro dei Mouse on Mars. Non è assolutamente house quello che vi state per ascoltare, qualcuno ha addirittura definito questo pezzo soul, un soul molto moderno. Give All to Love, Niob da Colonia, a chiudere la prima parte di Eclettica. Eclettica. Fine della prima parte.